pomeriggio a tutte e a tutti. La vostra radiolina è sempre sintonizzata su 87.9. Questa è Radio Onda Rossa. E come te sbagli, come ogni giovedì pomeriggio in tall'aria, questa è Attica Blues. Noi ci abbiamo preso gusto, quindi continueremo a farvi sentire dei live, nello specifico dei live del jazz per la seconda puntata consecutiva. Eh sì, proseguiamo allora con questa seconda nostra puntata, e questa la apriamo invece con le tre grandi voci più importanti secondo me del jazz, e sono ovviamente quella di Billie Holiday, di Ella Fitzgerald e di Sarah Vaughan, catturate nella seconda metà degli anni 50. Quindi, come annunciato, cominciamo con Billie Holiday in un concerto registrato a New York. Sì, registrato alla Carnegie Hall nel 1956, e qui è già la seconda parte della vita di Billie Holiday in cui la voce è rovinata dagli eccessi, ma forse ancora più struggente. E allora Billie Holiday, che poi morirà tre anni dopo, nel 1959. Ma qui è con una formazione stellare composta dalla tromba di Roy Herridge, dal sassofono di Coleman Hawkins, dal piano di Tony Scott, tra gli altri anche la chitarra di Kenny Barrell, per un disco prodotto da Norman Granz e la sua Verve. Questa è I Love My Man. Since I've been your babe, I've been your slave. Ever since I've been your babe, but before I'll be your dog, I'll see you in your grave. Wouldn't give me no dinner, squawked about my supper, then he put me outdoors. Had the nerve to lay a matchbox on my clothes. I didn't have so many, but I had a long, long ways to go. Through this world, some men like me 'cause I'm happy, some 'cause I'm snappy, some call me honey, others think I've got money, some tell me Billy, maybe you're built for speed. Now you put that all together, makes me everything a good man needs. passiamo adesso alla seconda regina, sto parlando di Ella Fitzgerald, una regina più allegra, più spensierata e in qualche modo anche più virtuosa. Questo è un live uscito per la Verve, live at Newport, al Newport Jazz Festival del 1957, era un 4 luglio, questa è Airmail Special. Who's on the mountain? You blow through here, the music goes round and round. Oh, we meet and the angels sing. The angels sing the sweetest song I ever heard. Ba bo bo ba brin di di drin di di drin di di. Day delight and I want to go home. Mama look at boo boo day, shut your mouth, go away. Mama look at boo boo da, hush your mouth, go away. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's a more. How do you do did I? How do you did I? E concludiamo questo trittico di grandi voci ancora con la Verve, la casa discografica fondata da Norman Granz proprio per permettere a Ella Fitzgerald di realizzare i suoi songbook. E allora concludiamo il 7 marzo del 1958 è di scena alla London House di Chicago quella cantante chiamata Sarah Vaughan, e qui lei al suo trio allarga pure la formazione con 4 ottoni dell'orchestra di Count Basie. Questo è uno standard, Like Someone in Love. Thank you very much. Ladies and gentlemen, may I at this time present a real great in our business, Miss Sarah Vaughan. How about a nice hand for Sarah? Lately I find myself out gazing at stars, hearing guitars like someone in love. Sometimes the things I do astound me, mostly whenever you're around me. Lately I seem to walk as though I had wings, bump into things like someone in love. Each time I look at you I'm limp as a glove, feeling like someone in love. Finite le tre voci femminili, rimaniamo comunque con una voce, quella di Bobby McFerrin, accompagnato dal pianista Chick Corea. Sì, per 6 serate, siamo in un periodo più recente, siamo il 23 giugno del 1990 in una tournée appunto alla fine del mese di giugno, registrata ancora una volta a New York. Qui sono in duetto, sì, la voce è quella di Bobby McFerrin, ma lui la usa esattamente come uno strumento, per questo che è un blues più moderno, a firma di Ornette Coleman, in un disco Play uscito per la Blue Note Records. Questa è Blues Connotation. Boop Did it. Rimaniamo così sul pianoforte, passiamo a un pianista a cui siamo particolarmente affezionati, sto parlando di Michel Petrucciani. Sì, per uno dei suoi concerti più belli usciti per la Dreyfus nel 1999. Questo è un solo live uscito proprio poco dopo la sua morte ed è un po' il suo testamento solista al mondo del jazz. Un album registrato il 27 febbraio del 1997 a Francoforte, in Germania. E questo è uno dei brani che conclude questo concerto, ed è una rivisitazione di Caravan di Duke Ellington. Thank you. come state ascoltando, stiamo continuando con i pianisti. Lui è Keith Jarrett in trio, il pezzo prima di Petrucciani durava 10 minuti, questo ve lo faremo ascoltare per ben 20 minuti. Sì, Jarrett che negli anni 70 ha reso celebri quelle esecuzioni torrenziali in piano solo, qui invece in trio con Gary Peacock al contrabbasso e Jack DeJohnette alla batteria. Questo standard trio dagli anni 80 poi hanno sempre registrato con Manfred Dyrett, che soprattutto nei live poi l'ha fatti uscire in vari dischi per la sua ECM. Ma qui è un bootleg in realtà, una versione non ufficiale di registrata al Fabrik di Amburgo in Germania nel 1989. Quella che ci stiamo ascoltando è I'm a Fool to Want You. We'll be right back. come sicuramente sapete, il 6 luglio scorso è venuto a mancare Ennio Morricone, grandissimo compositore di musica soprattutto per film, un compositore che ha avuto una rilevanza internazionale e che quindi è stato tributato in vari modi. Sì, noi lo vogliamo omaggiare in una versione jazz di un suo tema famosissimo, era quello del cinema Paradiso, che è poi stato ripreso intanto su disco nel 1996 dal duo formato dalla chitarra di Pat Metheny e poi dal contrabbasso di Charlie Haden. Noi qui li prendiamo dal vivo, perché poi loro, soprattutto nelle esecuzioni live, hanno ripreso questo brano in molte occasioni, e qui è un live registrato in Germania il 7 maggio del 2003. Questa è appunto è Cinema Paradiso. così siamo arrivati allo scadere della nostra ora. Attica Blues volge al termine. Questo che ci stiamo ascoltando è l'ultimo brano di questo giovedì. E queste sono le sonorità più brillanti per un live più moderno del trombettista americano Dave Douglas. Questo è un live registrato allo Jazz Standard nel 1° febbraio del 2006 e per una formazione che comprende anche Donnie McGraslin al tenore, Hurricane al piano elettrico, James Genius al contrabbasso e Clarence Penn alla batteria. Questa è Meaning and Mystery. Ricordiamo comunque che a breve pubblicheremo il podcast di questa puntata sul magnifico sito della radio www.ondarossa.info, dove nella nostra pagina trovate anche tutti i vari podcast delle monografie che Attica Blues fa. Soprattutto se siete interessati a quella dei live, ne abbiamo già fatte varie, quindi le potete ascoltare tutte. E vi ricordiamo anche le nostre pagine social. Attica Blues la trovate su Facebook, su Twitter, su Instagram e anche su Spotify, dove troverete una ricchissima playlist di musica nera. Siamo arrivati a più di 90 ore. We'll be right back. rinviamo a giovedì prossimo, che faremo ancora una puntata sui live. E ci sentiamo giovedì prossimo.